Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Sono in Calabria, sono in una piccola città, Rossano Calabro, celebre in tutto il mondo per il tesoro che conserva nel Museo Arcivescovile. Si tratta del celebre Codex Rossanensis, anzi Codex Purpureus Rossanensis. È un libro straordinario, è un libro che contiene dei Vangeli, è un libro che è miniato naturalmente, che risale al VI secolo d.C., quindi un libro antichissimo e che ha la caratteristica di avere tutte le pagine di colore di porpora. Non solo, ma le iscrizioni, diciamo le lettere con cui è scritto, sono in parte scritte con l'oro e con l'argento, quindi un oggetto straordinario. Da dove proviene un oggetto così? Beh, intanto è un oggetto purtroppo che manca, diciamo, della metà dei fogli, perché conteneva in origine probabilmente tutti e quattro i Vangeli. Adesso se ne sono conservati solo due, ma sono meravigliosamente illustrati, per cui gli episodi della vita di Cristo sono illustrati con delle bellissime miniature. Questo codice così importante doveva probabilmente provenire da Bisanzio, perché non si riesce a capire lo sfarzo straordinario di questo libro se non all'interno della corte bizantina o della chiesa di Bisanzio. Approdò in modo misterioso sulle coste della Calabria e qui venne intercettato per la prima volta a metà dell'Ottocento, pensate, da un giornalista che, passeggiando e scrivendo una guida di quelle zone, si accorse che questo libro era davvero molto importante. Alla fine dell'Ottocento venne studiato, ci si accorse che era uno dei rarissimi libri conservati, appunto, del VI secolo, miniati, colorati di porpora e scritti con l'oro e l'argento. Di recente questo codex è stato restaurato a Roma ed è tornato dopo 3 anni di restauro. Adesso lo possiamo rivedere nella sede originaria. Questo restauro è stato importantissimo perché ha rivelato alcune cose che non si sapevano. Intanto una cosa clamorosa: quello che è il Codex Purpureus, cioè il codice fatto con la porpora, non venne in realtà realizzato con la tradizionale tecnica della porpora, che come sapete è ricavata da una conchiglia particolare che colora la pergamena, ma venne realizzato tra virgolette al risparmio, cioè con l'oricello, con un colorante rosso che però è di origine vegetale. L'oricello dà il nome alla famiglia fiorentina dei ruccellai, che erano diventati ricchi commerciando appunto questo pigmento. E quindi oggi noi possiamo andare a vedere il codice perfettamente riallestito, con anche molta multimedialità che ci permette di sfogliarlo, nella sua sede originaria, cioè a Rossano Calabro, e ammirare stupefatti il rosso di questa finta porpora, ma l'oro e l'argento originario delle lettere del Vangelo. Thank you.